Ancora. Era ancora. Co. A caso mai vorrei codirlo, se dirlo, e così, e poncio, sei il vanduto per dirlo, e così, e bocine da più gioco troppo più per dirlo, e così, e bello diamante e costruttivo. E così, e per il pure, per il cocciola di volo, e così, e un po' di alido, un punto con allo, e così, e così, e con la caida di con allo, e così, e con la caida di con allo. E così, e poi ti porto a due amore, e così, e canti ti consigliere di un caro, e così, e se taro lo giù, e si darò, e così, e se ti do così lo babbo a caro. E così, e già il moro a pacchi se occorri voglio. E così, e lo so pancio tronca, tronco occorri voglio. E così, morì che sui di amare di Dio. A papà dai chi se quello, che ci cosa fa lui? Ah, mai di la riballa. Babu bongai. Cera sera sera no koi lubra. Mother tali uchi kara. Togaga. Koi ne. Ga. Je pancha ko su tu jai ti bure babu ongari atho ba atho ma nai ba odho ba tu se ga to angi bure babu ongari wan gunai jantu su ti ne bari bori bure e babu ongari ये सर्प सु नहीं जंतु सुई नड़ी बुरे बाबू आ सर्प सुई नड़ी भरी बुरे ए बाबू गंगाली ए मुख तीर गई मुंडो मारी बुरे ए बाबू गंगाली ये मुतो सुई मुतो कोसी थी रुसई सरे ए बाबू मंगल ये वाली आसनी बड़ो चंचल रे ए बाबू मंगल ए पचारी कथा निरुला बेले रे ए बाबू मंगल ए किस करुंती मो माता पिता रे ए बाबू मंगल फिर कैसे सीखूं.